Effetti della comunione ricevuta in unione con l'umanità e la divinità di Gesù, nella divina volontà. Selezione di brani dagli scritti della serva di Dio Luisa Piccarreta. Volume 1, 1 ottobre 2, 1916. Questa mattina ho fatto la comunione come Gesù mi aveva insegnato, cioè, unita con la sua umanità, divinità e volontà sua. E Gesù, venendo, si è fatto vedere ed io l'ho baciato e stretto al mio cuore, e lui mi ha restituito il bacio, l'abbraccio, e mi ha detto: figlia mia, come ne son contento che sei venuta a ricevermi unita con la mia umanità, divinità e volontà. Mi hai rinnovato tutto il contento che ricevetti quando comunicai me stesso. E mentre tu mi baciavi, mi abbracciavi, stando in te tutto me stesso, contenevi tutte le creature, ed io mi sentivo darmi il bacio di tutti, gli abbracci di tutti, perché questa era la tua volontà, qual era la mia nel comunicarmi, di rifare il padre di tutto l'amore delle creature, adonta che molti non l'avrebbero amato. Ed il padre si rifaceva in me dell'amor loro, ed io mi rifaccio in te dell'amore di tutte le creature. Ed avendo trovato nella mia volontà chi mi ama, mi ripara, eccetera. A nome di tutti, perché nella mia volontà non c'è cosa che l'anima non possa darmi, mi sento d'amare le creature, adonta che mi offendano, e vo inventando stratagemmi d'amore intorno ai cuori più duri per convertirli. Solo per amore di queste anime che fanno tutto nel mio volere, io mi sento come incatenato, rapito, e concedo a loro i prodigi delle più grandi conversioni. Pertanto, dobbiamo fare la comunione uniti alla sua divinità e volontà per rinnovargli tutto il contento che Gesù ricevette quando comunicò se stesso. Preparazione alla comunione. Offese fatte a Gesù dai suoi, volume secondo, aprile 16, 1899. Stando nel mio solito stato, Gesù mi ha invitato a girare per vedere che cosa facevano le creature. Io gli ho detto: mio adorabile Gesù, questa mane non ho voglia di girare e di vedere le offese che ti fanno. Stiamoci qui, tutti e due insieme. Ma Gesù insisteva che voleva girare. Allora, per contentarlo gli ho detto: se vuoi uscire, andiamo piuttosto dentro di qualche chiesa, che là sono più poche le offese che vi fanno. E così siamo andati dentro ad una chiesa, ma anche là era offeso, più che in altri luoghi. Non perché nelle chiese si facciano più peccati che nel mondo, ma perché sono offese fatte dai suoi più cari, da quegli stessi che dovrebbero mettere anima e corpo per difendere l'onore e la gloria di Dio. Perciò giungono più dolorose al suo cuore adorabile. Quindi vedevo anime devote, che per bagatelle da niente non si preparavano bene alla comunione. La loro mente, invece di pensare a Gesù, ci pensavano ai loro piccoli disturbi, a tante cose minute, e quest'era il loro apparecchio. Quanta pena facevano queste tali a Gesù e quanta compassione facevano loro stesse. Che badavano a tante palluzze, a tante frasche ed intanto, poi, noi benigni avanzi di uno sguardo a Gesù. Gesù mi disse: figlia mia, quanto impediscono queste anime che la mia grazia si versi in loro. Io non guardo alle minutezze, ma all'amore con cui si accostano e, loro me ne fanno un cambio, più badano alle paglie che all'amore. Anzi, l'amore distrugge le paglie, ma con molte paglie non si accresce un tantino d'amore, anzi, lo si diminuisce. Ma quel che è peggio di queste anime, che si disturbano tanto, ci perdono molto tempo, Vorrebbero stare coi confessori le ore intere. Per dire tutte queste minutezze, ma mai mettono mano all'opera con una buona e coraggiosa risoluzione per svellere queste paglie. Che dirti poi, o figlia mia, di certi sacerdoti di questi tempi? Si può dire che operano quasi satanicamente, giungendo a farsi idolo delle anime. Ah, sì, dai miei figli il mio cuore viene più trafitto, perché se più gli altri mi offendono, offendono le parti del mio corpo, ma i miei mi offendono le parti più sensibili e tenere, fino nell'intimo del cuore. Luisa si offre in modo speciale. Non ci è ostacolo maggiore per l'unione con Dio che l'umana volontà. Volume 4 ottobre 3, 1901. Avendo fatto la comunione, stavo pensando come offrire una cosa più speciale a Gesù, come attestare il mio amore e dargli un maggior gusto. Onde gli ho detto: Dilettissimo mio Gesù, ti offro il mio cuore a tua soddisfazione ed in tua eterna lode. E ti offro tutta me stessa, anche le minime particelle del mio corpo, come tanti muri da mettere innanzi a te per impedire qualunque offesa che vi venga fatta, accettandole tutte sopra di me, se fosse possibile, ed in tuo piacere, fino al giorno del giudizio. È perché un voglio la mia offerta sia completa e vi soddisfi per tutti, intendo che tutte quelle pene che sopporterò ricevendo sopra di me le vostre offese vi ricompensino di tutta quella gloria che vi dovevano dare i santi che stanno nel cielo, quando stavano sulla terra. Quelle che vi dovevano dare le anime del purgatorio e quella gloria che vi dovevano tutti gli uomini passati, presenti e futuri. Ve li offro per tutti in generale e per ciascuno in particolare. Ah, siccome, appena ho finito di dire, il benedetto Gesù, tutto commosso per tale offerta, mi ha detto: Diletta mia, tu stessa non puoi capire il gran contento che mi hai dato con l'offrirti in questo modo? Mi hai lenito tutte le mie ferite e mi hai dato una soddisfazione per tutte le offese passate, presenti e future, ed io le terrò in conto per tutta l'eternità, come una gemma più preziosa che mi glorificherà eternamente. Ed ogni qualvolta la guarderò darò a te nuova e maggiore gloria eterna. Figlia mia, non ci può essere ostacolo maggiore che impedisce l'unione tra me e le creature e che si oppone alla mia grazia, quanto la propria volontà. Tu con l'offrirmi il tuo cuore a mia soddisfazione, ti sei votata di te stessa e, vuotandoti di te, io mi riverserò tutto in te. E dal tuo cuore mi verrà una lode riportante le stesse note della lode del mio cuore, che continuamente dà al mio Padre per soddisfare alla gloria che non gli danno gli uomini. Mentre ciò diceva, vedevo che mediante la mia offerta uscivano da tutte le parti di me stessa tanti rivoli che si versavano sopra al benedetto Gesù, e che poi con impeto e più abbondanti li riversava su tutta la corte celeste, sul purgatorio e su tutte le genti. Oh, bontà del mio Gesù nell'accettare una sì misera offerta, che l'ha ricompensata con tanta grazia. Oh, prodigio delle sante e pie intenzioni. Se in tutte le nostre opere, anche triviali, se ce ne avvalessimo, qual traffico non faremmo? Quante proprietà eterne non acquisteremmo? Quanta gloria di più non daremmo al Signore? Offerta della comunione, come gli atti fatti nella divina volontà sono accidenti in cui si moltiplica Gesù. Come l'anima contiene la sorgente dei sacramenti. Volume 2, secondo luglio 4, 1927. Stavo facendo il ringraziamento dopo aver ricevuto la Santa Comunione e pensavo tra me che volevo offrirla a tutti ed a ciascun abitatore del cielo, a ciascuna anima del purgatorio, a tutti i viventi che sono e saranno. Non solo, ma vorrei dare al sole il mio Gesù sacramentato, al cielo stellato, ai prati fioriti, insomma a ciascuna cosa creata per dargli la gloria ed il trionfo di tutte le opere sue. Ma mentre ciò dicevo pensavo tra me, sono le mie solite sciocchezze. Come io posso formare tanti Gesù? Ciò è impossibile. Ed il mio amato Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto: figlia mia, come nell'ostia sacramentale ci sono i piccoli accidenti del pane e dentro di essi si nasconde il tuo Gesù vivo e vero, e tanti Gesù per quante ostie ci sono, così nell'anima ci sono gli accidenti della volontà umana non soggetti a consumarsi come gli accidenti della mia vita sacramentale, perciò più fortunati e più solidi. E come la vita eucaristica si moltiplica nelle ostie, così la mia volontà divina si moltiplica nella mia vita in ogni atto di volontà umana, la quale più che accidente si presta alla moltiplicazione della mia vita. Come tu facevi scorrere la tua volontà nella mia e volevi darmi a ciascuno, così la mia formava la mia vita nella tua e sprigionavo fuori della sua luce la mia vita dandomi a ciascuno. Ed io, oh come mi sentivo felice che la piccola figlia del mio volere negli accidenti della sua volontà formava tante mie vite per darmi non solo alle creature animate, ma a tutte le cose da me create. Onde io mi sentivo che come moltiplicavo la mia vita mi costituivo re di tutti, re del sole, del mare, re dei fiori, delle stelle, del cielo, insomma di tutto. Figlia mia, chi vive nella mia volontà tiene in sé la fonte della sorgente dei sacramenti e può moltiplicarmi quanto vuole e come vuole. Onde io sono rimasta in dubbio sull'ultima frase scritta sopra ed il mio amato Gesù ha soggiunto: figlia mia, i sacramenti uscirono dalla mia volontà come tante fontanine, li misi fuori di essa riserbandomi in essa la sorgente da cui ricevono continuamente, ciascuna fontana, i beni ed i frutti che ciascuna contengono, ed agiscono a secondo delle disposizioni di chi li riceve. Ma per mancanze di disposizioni da parte delle creature le fontanine dei sacramenti non comunicano i beni grandi che contengono. Molte volte gettano acque e le creature non restano lavate, altre volte consacrano imprimendo un carattere divino ed incancellabile, ma con tutto ciò non si vedono santificati. Un'altra fontana partorisce la vita del tuo Gesù continuamente, la ricevono questa vita, ma non si vede negli effetti, né la vita del tuo Gesù in loro. Quindi ogni sacramento ha il suo dolore perché non vedono in tutte le creature i loro frutti ed i beni che contengono. Ora, chi vive nella mia volontà facendola regnare come nel suo proprio regno, possiede essa, la sorgente dei sacramenti. Qual meraviglia che chi vive nel mio volere possederà la sorgente di tutti i sacramenti e sentirà in sé la natura dei sacramenti con tutti gli effetti e beni che contengono. E ricevendoli dalla Chiesa sentirà che è un cibo che lei possiede, ma che la prende per dargli quella gloria completa a quei sacramenti di cui essa ne possiede la sorgente per glorificare quella stessa volontà divina che la istituì, perché solo in essa ci sarà perfetta gloria a tutte le nostre opere. Perciò sospiro tanto il regno del Fiat Supremo, perché esso solo metterà l'equilibrio a tutto. Darà alle creature tutti i beni che vuole e riceverà la gloria che esse le devono. Al momento della consacrazione, perciò insieme con te mi offro all'Eterno Padre, immedesimata con la tua volontà, col tuo amore, con le tue riparazioni, col tuo stesso cuore e con tutte le tue pene 19ª ora. Come nostro Signore fece il deposito della sua vita sacramentale nel cuore della SS. Vergine. Il gran bene che può fare una vita animata dalla divina volontà. Come la Vergine SS. Nei suoi dolori trovava il segreto della forza nella volontà divina. Volume 21 aprile 19, 1927. Stavo facendo l'ora quando Gesù istituì la Santissima Eucaristia 2, e Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto: Figlia mia, quando faccio un atto, prima guardo se vi è almeno una creatura dove mettere il deposito dell'atto mio, affinché prendesse il bene che faccio, lo tenga custodito e ben difeso. Ora, quando istituì l'SS Sacramento cercai la creatura, e la mia regina mamma si offrì lei a ricevere quell'atto mio ed il deposito di questo gran dono, dicendomi: Figlio mio, se ti offrì il mio seno e tutto l'essere mio nel tuo concepimento per tenerti custodito e difeso, ora ti offro il mio cuore materno per ricevere questo gran deposito. Schiero intorno alla tua vita sacramentale i miei affetti, i miei palpiti, il mio amore, i miei pensieri, tutta me stessa per tenerti difeso, corteggiato, amato, riparato. Prendo io l'impegno di contraccambiarti del dono che fai, fidati della mamma tua ed io ci penserò alla difesa della tua vita sacramentale. E siccome tu stesso mi hai costituita regina di tutta la creazione, tengo il diritto di schierare intorno a te tutta la luce del sole per omaggio ed adorazione, le stelle, il cielo, il mare, tutti gli abitatori dell'aria, tutto metto intorno a te per darti amore e gloria. Ora, assicurandomi dove potevo mettere questo gran deposito della mia vita sacramentale e fidandomi della mamma mia che mi aveva dato tutte le prove della sua fedeltà, istituì l'SS Sacramento. Era la sola degna creatura che poteva custodire, difendere e riparare l'atto mio. Vedi dunque, quando le creature mi ricevono io scendo in loro, insieme con gli atti della mia inseparabile mamma, e solo per questo posso durare la mia vita sacramentale. Perciò è necessario che scelga prima una creatura, quando voglio fare un'opera grande degna di me, primo per tenere il luogo dove mettere il mio dono, secondo per averne il contraccambio. Anche nell'ordine naturale fanno così: se l'agricoltore vuole gettare il seme, non lo getta in mezzo alla strada, ma va in cerca del piccolo terreno, prima lo lavora, vi forma il solco e poi vi getta il seme, e per esserne sicuro lo copre di terra aspettando con ansia il ricolto per contraccambiarsi del suo lavoro e del seme che è affidato alla terra. Un altro vuol formare un bell'oggetto, prima prepara le materie prime, il luogo dove metterlo e poi lo forma. Così pure ho fatto per te, ti scelsi, ti preparai e poi ti affidai il gran dono delle manifestazioni della mia volontà, e come affidai alla mia diletta madre la sorte della mia vita sacramentale. Così ho voluto fidarmi di te affidandoti la sorte del regno della mia volontà. Tutto ciò che l'anima fa nella volontà di Dio, Gesù lo fa insieme con l'anima. Volume 11 dicembre 22, 1916. Avendo fatto la comunione, stavo unendomi tutta con Gesù e riversandomi tutta nel suo volere e gli dicevo: io non so far nulla né dire nulla, perciò sento il grande bisogno di fare ciò che fai tu e ripetere le tue stesse parole. Nel tuo volere trovo presenti e come in atto gli atti che tu facesti nel riceverti sacramentato, ed io li faccio miei e te li ripeto. E così cercavo d'internarmi in tutto ciò che aveva fatto Gesù nel riceversi sacramentato, e mentre ciò facevo, mi ha detto: Figlia mia, chi fa la mia volontà e tutto ciò che fa lo fa nel mio volere, mi costringe a fare insieme ciò che fa l'anima. Sicché, se si comunica nel mio volere, io ripeto gli atti che feci nel comunicarmi e rinnovo il frutto completo della mia vita sacramentale, se prega nel mio volere, io prego con lei e rinnovo il frutto delle mie preghiere, se soffre, se opera, se parla nella mia volontà, io soffro insieme col rinnovare il frutto delle mie pene, opero e parlo insieme, e rinnovo il frutto delle mie opere e parole, e così di tutto il resto. La SS Eucaristia contiene tutta la vita, le preghiere, le pene, le opere e l'amore di Gesù. Se l'anima, nel comunicarsi, fa ciò che fece Gesù nel ricevere se stesso, gli rinnova quella gloria.